L'inverno stava per finire. Una mattina, dopo settimane di acquazzoni e di tempeste, sentì nel mio camino, invece del vento informe, elastico e cupo che mi faceva fremere dal desiderio d'essere in riva al mare, sentì il tubare dei piccioni che nidificavano lungo il muro. Iridato, imprevisto, come un primo giacinto che lacerasse dolcemente il proprio cuore nutricante per farne sbocciare, viola e satinato, quel fiore sonoro, esso faceva entrare nella mia stanza ancora chiusa e buia, come da una finestra aperta, il tepore, l'abbagliamento, la stanchezza di una prima giornata serena. Mi sorpresi quella mattina a canticchiare un'arietta da caffè concerto mai più riaffiorata dall'anno in cui sarei dovuto andare a Firenze e a Venezia. A tal punto l'atmosfera, seguendo l'arbitrio delle giornate, agisce in profondità sul nostro organismo e trae dalle oscure riserve dove le avevamo consegnate all'oblio le melodie che la nostra memoria, in cui si erano impresse, non aveva saputo decifrare. Un sognatore più consapevole si aggiunse ben presto al musicista che avevo ascoltato dentro di me senza nemmeno riconoscere a tutta prima cosa stesse eseguendo. Sentivo bene come non concernessero Balbec in quanto tale le ragioni per cui, arrivandoci, non avevo più ritrovato nella sua chiesa il fascino che aveva per me prima che la vedessi. Così come nemmeno a Firenze, a Parma o a Venezia la mia immaginazione avrebbe potuto sostituirsi per guardare agli occhi. Lo sentivo. Allo stesso modo, una sera di Capodanno, mentre scendeva la notte, davanti a una colonna di manifesti teatrali, avevo scoperto quanto fosse illusorio credere che certi giorni di festa siano davvero diversi dagli altri. E tuttavia non potevo impedire che il ricordo di quando avevo creduto di passare a Firenze la Settimana Santa continuasse a fare di quest'ultima qualcosa come l'atmosfera della città dei fiori, dando, insieme, al giorno di Pasqua un che di fiorentino e a Firenze un che di pasquale. La settimana di Pasqua era ancora lontana, ma nel corteo dei giorni che si stendeva davanti a me, i giorni santi spiccavano più chiari al di là di quelli che li precedevano. Colpiti da un raggio, come case di un villaggio viste da lontano in un effetto d'ombra e di luce, assorbivano in sé tutto il sole. Il tempo si era raddolcito e anche i miei genitori, consigliandomi di fare delle passeggiate, mi fornivano un nuovo pretesto per perseverare nelle mie uscite mattutine. Avevo deciso di interromperle perché altrimenti avrei incontrato Madame de Guermantes, ma proprio per questo ci pensavo di continuo, il che mi induceva a escogitare ogni momento una nuova ragione per farle, una ragione priva di qualsiasi rapporto con Madame de Guermantes e tale, dunque, da convincermi facilmente che, quando anche lei non fosse esistita, io sarei comunque uscito a passeggio esattamente alla stessa ora. Disgraziatamente, mentre per me incontrare qualsiasi altra persona sarebbe risultato indifferente, ero certo che, per lei, sarebbe risultato sopportabile incontrare chiunque tranne me. Le capitava, durante le sue passeggiate mattutine, di essere salutata da una quantità di imbecilli che lei, in effetti, giudicava tali. Ma l'apparizione di costoro la considerava, se non come una promessa di piacere, perlomeno come un effetto del caso. E a volte si fermava con loro, perché ci sono dei momenti in cui si ha bisogno di uscire da sé, di accettare l'ospitalità dell'anima degli altri, a condizione che quest'anima, per modesta e sordida che sia, appartenga a un estraneo, mentre nel mio cuore lei doveva avere l'esasperante sensazione che non avrebbe ritrovato nient'altro che se stessa. Così, anche se avevo, per fare la sua stessa strada, una ragione diversa dal desiderio di vederla, nel momento in cui mi passava accanto tremavo come un colpevole e a volte, per neutralizzare quel che d'eccessivo poteva esserci nei miei approcci, Rispondevo appena al suo saluto, oppure la fissavo senza salutarla, non riuscendo peraltro che a irritarla ancora di più e a far sì che cominciasse, oltretutto, a ritenermi insolente e maleducato. Indossava ora abiti più leggeri, o perlomeno più chiari, e così vestita percorreva la via dove già, come fosse primavera, davanti alle anguste botteghe che si insinuavano tra le vaste facciate dei vecchi palazzi aristocratici, sopra i banchi delle venditrici di burro, di frutta, di verdura, erano stese tende a far schermo contro il sole. Secondo il giudizio degli intenditori, quella donna che vedevo da lontano camminare, aprire l'ombrellino, attraversare la strada era, mi ripetevo, la più grande artista del momento nell'arte di compiere quei gesti e di farne qualcosa di delizioso. Si avvicinava, intanto. Ignaro di quella fama che lo circondava e di cui non aveva assorbito nulla, il suo corpo stretto, refrattario, si inarcava obliquamente sotto una sciarpa di surà viola. I suoi occhi annoiati e chiari, guardando distrattamente avanti a sé, mi avevano forse avvistato. Si mordeva un poco le labbra. L'osservavo mentre s'aggiustava il manicotto, faceva l'elemosina a un povero, comprava dalla fioraia un mazzo di violette. L'osservavo con la stessa curiosità con cui avrei guardato un grande pittore intento a maneggiare il pennello. E quando, giunta alla mia altezza, mi faceva un cenno di saluto cui si aggiungeva a volte un tenue sorriso, era come se avesse seguito per me, aggiungendovi tanto di dedica, uno schizzo a china che era un capolavoro. Ciascuno dei suoi abiti mi sembrava una sorta di atmosfera naturale, necessaria, la proiezione di un determinato aspetto della sua anima. Un mattino di Quaresima la incontrai mentre andava a colazione fuori, indossando un vestito di velluto rosso chiaro leggermente scollato. Il viso, sotto i capelli biondi, sembrava trasognato. Mi sentii meno triste del solito, perché l'espressione malinconica, quella specie di clausura che la violenza del colore frapponeva fra lei e il resto del mondo, le conferivano un'aura in qualche modo infelice e solitaria che mi tranquillizzava. Mi pareva quel vestito la materializzazione, intorno a lei, dei raggi scarlatti di un cuore che non le conoscevo e che forse avrei potuto consolare. Rifugiata nella luce mistica di quella stoffa dolcemente ondeggiante, mi faceva pensare a una santa della cristianità primitiva. Provavo ritegno, allora, ad affliggere una simile martire con la vista della mia persona. Ma in fin dei conti la strada è di tutti. Sì, la strada è di tutti, mi ripetevo, attribuendo a queste parole un diverso significato e pensando con ammirazione come, in effetti, nella via affollata che, spesso umida di pioggia, diventava preziosa come lo sono a volte le strade nelle antiche città italiane, la duchessa di Guermantes mescolasse alla vita pubblica alcuni momenti della sua vita segreta, mostrandosi in quel modo a ciascuno misteriosa, sfiorata da tutti, con la stupenda gratuità dei grandi capolavori. Poiché uscivo la mattina senza aver chiuso occhio per tutta la notte, i miei genitori mi raccomandavano, nel pomeriggio, di stendermi un po' e cercare di prendere sonno. Non c'è bisogno, per riuscirci, di molta riflessione, mentre è utilissima l'abitudine e anche l'assenza di riflessione. Ora, in quel particolare momento della giornata venivano a mancarmi entrambe. Prima di addormentarmi, pensavo così a lungo di non poterci riuscire che un po' di quel pensiero sopravviveva anche nel sonno. Era appena un barlume nell'oscurità quasi completa, ma bastava far sì che nel mio sonno si riflettessero prima l'idea che non sarei riuscito ad addormentarmi, poi, riflesso di quel riflesso, l'idea che, mentre già dormivo, avevo creduto di non dormire, Poi, con una nuova rifrazione, il mio risveglio ad un nuovo sonno durante il quale volevo informare alcuni amici entrati nella mia camera che poco prima, dormendo, mi era parso di non dormire. Erano ombre appena distinguibili. Per afferrarle ci sarebbe voluta una grande e alquanto vana sottigliezza di percezione. È così che in seguito, a Venezia, parecchio dopo il tramonto, quando sembra che regnino le tenebre, ho visto, grazie all'eco, seppur invisibile, di un'estrema nota di luce indefinitamente tenuta sopra i canali come per effetto di un pedale ottico, ho visto il riflesso dei palazzi disteso, come per sempre, in velluto più nero sul grigio crepuscolare delle acque. Uno dei miei sogni era la sintesi di ciò che, da sveglio, avevo spesso cercato di raffigurarmi con l'immaginazione a proposito di un certo paesaggio marino e del suo passato medievale. Dormendo, vedevo una città gotica in mezzo a un mare i cui flutti erano immobilizzati come in una vetrata. Un braccio di mare divideva in due la città. L'acqua, che si stendeva verde ai miei piedi, giungeva a lambire sull'opposta riva una chiesa orientale, poi delle case risalenti al XIV secolo, così che avvicinarvisi sarebbe stato come rimontare il corso del tempo. Quel sogno, in cui la natura aveva imparato l'arte e il mare era diventato gotico, quel sogno in cui desideravo, in cui credevo di approdare all'impossibile, mi sembrava di averlo già fatto più volte. Ma poiché è caratteristico di ciò che si immagina dormendo il moltiplicarsi nel passato e l'apparire, pur essendo nuovo, familiare, avevo concluso di essermi ingannato. Scopersi invece che, in effetti, si trattava di un sogno ricorrente. Anche le riduzioni che caratterizzano il sonno si riflettevano nel mio, ma in forma simbolica. Non potevo nell'oscurità distinguere il volto degli amici che erano entrati, perché si dorme ad occhi chiusi. Io che, sognando, facevo interminabili ragionamenti verbali, come cercavo di rivolgere la parola a quegli amici, sentivo che il suono mi moriva in gola, perché nel sonno non si parla nitidamente. Volevo andar loro incontro e non potevo muovere le gambe perché nemmeno camminare lì è possibile. E tutto a un tratto avevo vergogna che mi vedessero, perché si dorme svestiti. Così, gli occhi ciechi, le labbra sigillate, le gambe legate, il corpo nudo, la figura del sonno proiettata dal mio stesso sonno, faceva pensare alle grandi figure allegoriche in cui Giotto ha rappresentato l'invidia con un serpente in bocca, quelle figure che mi aveva regalato Swann. Saint-Loup venne a Parigi solo per poche ore. Nell'assicurarmi che non gli era stato possibile parlare alla cugina, «Non è per niente gentile, Oriane», aggiunse tradendosi ingenuamente. «Non è più la mia Oriane di una volta, me l'hanno cambiata. Credimi, non vale la pena che ti occupi di lei, le fai davvero troppo onore». «Non vuoi che ti presenti a mia cugina Poitier?» continuò, senza rendersi conto che la cosa non poteva farmi il minimo piacere. «Lei sì è una giovane donna intelligente, che ti piacerebbe. Ha sposato un mio cugino, il duca di Poitier. Bravo ragazzo, ma un po' troppo semplice per lei. Le ho parlato di te. Mi ha chiesto di portarti a casa sua. È molto più graziosa di Oriane, è più giovane, è gentile, sai, è davvero a posto». Queste espressioni, adottate di recente e con tanto maggiore entusiasmo da Robert, alludevano alla delicatezza del tratto, del carattere. «Non ti dirò che sia dreyfusista, bisogna pur sempre tenere conto dell'ambiente, ma senti questo, sono parole sue. Se fosse innocente, sarebbe un vero orrore tenerlo nell'isola del diavolo. Capisci, no? E poi, insomma, è una persona che fa molto per le sue vecchie insegnanti. Ha proibito che le facessero salire dalla scala di servizio. Ti assicuro che è molto, molto a posto. Se a Orian non piace è perché, in fondo, sente che è più intelligente di lei.